sbeffata, presa in giro, fregandosene altamente dei risparmi di povera gente anziana. Sono passati 5 anni dal crack a Parmalat. Ora la sentenza del Tribunale di Milano dice che per il crollo dell'impero di Collecchio c'è un solo colpevole, Callisto Tanzi. Per lui condanna 10 anni di carcere, interdizione dai pubblici uffici e risarcimento di 380.000 euro alla Consob più altri soldi alle parti civili. Tutti assolti gli altri imputati, gli ex collaboratori e soprattutto i 3 dipendenti di Bank of America che secondo la procura avevano collaborato nella falsificazione dei dati patrimoniali. La sentenza cancella tutto per lo sconcerto dei legali dei risparmiatori. Sono 5 anni che i risparmiatori aspettano di vedere riconosciuti i loro diritti. Purtroppo noi usciamo ancora senza una soddisfazione economica. Per Italaudit, ex Grant Thornton, 240.000 euro di sanzione e 455.000 euro di confische. Dei 12 patteggiamenti proposti, 2 sono stati respinti perché ritenuti non congrui. Ora il processo si sposta a Parma, dove Tanzi deve rispondere di bancarotta. Per i risparmiatori resta invece il filone che si occupa della responsabilità delle banche. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore.